detto gufo, che facendo c'è? È bello. Che ho mai? Che facendo? Sì, beh, a computer mi so, a fare di disogo. Cosa vuole arrivare? Cosa sta ascoltando? Ma, guardando quegli accesi che tu sai. Ah, col telefono. Oh, atta. No, la bicicletta, lascialo parlare. Aspetta che abbasso la radio. Ma che trovo, un po' tristo. E quello non risponde perché è da farato. Sta tagliando i maialetti, sta tagliando. Ehi, Gio Mari, sicuramente ci sta mangiando l'endorle. E allora, quello è sempre tagliendo. E poi il bozzetto. A bisogno va un appassamento, ma bozzetto, Graziano. Ma se uno me la dice, se mi ha raccontato pure di un bozzetto, visto, di me. Senta la busta e qua di un bozzetto. E beh, legato, beh, è possibile. Quando lo metti bisogna tirare nell'aria per essere più perfetto, capito? E allora. Per carità sua. Bah. Beh, cosa hai combinato oggi? Oggi ho fatto dei lavorettini, dai, ma niente di che. Un po' impegnato, un po' qua, un po' là. Qualche lavorettino, Gio Maria, giusto per guadagnarmi i soldi per le sigarette. Beh. Infatti. Ma io mi è arrivato quel pacco, l'ho smontato stasera e c'è da piazzare, l'ho notte davanti, il cavalletto e il manubrio col faretto. Ah, ho capito, arrivata, e l'altra? E l'altra ancora così, alla parte, ma non è che mi interessi più di tanto se non la butto fuori, capito? O prima o poi qualcuno si fa vedere. E ho abbassato anche i prezzi. Sì, qualcuno l'ha buttato, già non ti ne domanda a parte. Eh no, infatti è pagata. È pagata per cui. Si riesce a attimi, l'ho rimesso la batteria come la prima, capito? Perché non mi piaceva. Quella fotografia che ha messo Luca non mi piace così, capito? L'ho smontata e ce l'ho rimessa di nuovo a posto su e è più bella così, capito? Piazzato il bauletto, tutto, capito? Adesso c'è da piazzare quella roba. Vabbè, verrà Luca piazzata, Giovanni. Lo sai, se c'hai bisogno non ce ne sono problemi, ci mancherebbe, no? Tanto mi viene di passaggio nel caso che ti serva una mano, lo sai, io per queste cose poi c'ho i ferri adatti, i ferri non me li manca, i più vissi. E ferri ja, ci sono tutte le chiavi che voglio io qua. E ma mi ha detto che è lunedì o martedì, eventualmente che non ci riusciamo, già ci facciamo uno squillo, capito? E per cui meglio essere piazzata e ciao, capito? E vabbè. Vabbè, già ci sentiamo comunque Luca. Sì, già ci riuscite allora, già è bravo Luca su queste cose, diciamo. Non è che vivo diploma, Sì, ma come si dice, carenata, la manopola, acceleratore già. Allora, c'ho i pedali, no, pedalo. Poi se voglio l'acceleratore c'è. E quello ti regola la velocità e basta, capito? Ma devi sempre pedalare, capito? Però ti regola, vuoi andare piano, più piano ancora, te lo regola con l'acceleratore, basta, capito? Adesso io mi aspetto domani che intanto tu riusciamo, quindi ci tocca, dai. Nel caso magari entro dopo, se c'è qualcuno, vabbè, a salutarti. Che da buona sciacquata. D'accordo, Luca. Va benissimo. Va benissimo. Ma chi è? E chi è? Lo Gio Mari. Oh, ciao. Buonasera. Adesso ho salito. Ero parlato il 27 con Marco e con Giulio. Ma mi ha dato la coppa a prendere roba e sono salita adesso. Ah, ti avevo freddo. Ed eccomi qua, comunque buonasera, ben sentito. Sì, ok, ciao Gio Maria. La sto ascoltando io, sono danzio da Custennere. Ah, ascoltando, sai. Quando c'ero io? No, ci sono un 10 minuti ascoltando. Ah no, io avevo chiuso perché ma c'è mancava roba e mi ha mandato la coppa, ho fatto uscire, gatto. La rugata, lo freddo, gatto, immaginate. Mi sono rientrato adesso. E mi sono dovuto assettare poco fa. Ma ci sono loro ancora, ma non ne ho voglia là. Infatti, non mi ha la giornata da che si offende. Fa vedere di apparati. Una giugana di Ustramero Zaibiddu. Vabbè, ogni tanto bisogna cavolare qualche cosa, tanto per ammazzare il tempo. E poi specialmente con Marco, da tanto che non ci sentivamo. Già lo conosci a Marco? Sì, a voglia. Catta, se non lo conosco. Ma è radioamatore, mi? Sì, è radioamatore, sì. Ah, ecco. Era un vecchio CB, per cui... Adesso lui è... ogni tanto si fa sentire, vai, fa piacere. Ok, vabbè, Bacchise, non l'hai sentito? No, no, Davva, non l'ho sentito, mi ho provato a chiamarlo a vedere, ma non mi ha rifuso. Vuol dire che hai due buone impegnate allora, vai. Approviamo a chiamarlo, vai, dai un altro colpo. Attenzione, signor Bacchise, sì. Oh, chissà cosa combinè, detto. Avvio, chissà cosa se prepari di tutta la fare si sentire come Graziano. Graziano seppi tagliente e poi di rubozzetto. andiamo. E allora, seppi pigliato, taglia di chi c'è là, poi di rubozzetto. Ma qui ero da mangiare un reggimento. andiamo. E così, Ettore, cosa hai combinato oggi? Quello che ho combinato ieri, nulla. Io stamattina ero a controllo della diabete, mi ha trovato la glicemia un po' alta, mi ha trovato, ma adesso dice aumentare, perché io ne facevo 16 la notte. E dice che mi avevo messo a fare 20, da 20 a 22, invece stavo facendo 16, forse per quello che mi ha aumentata e un po' attiva, va. Così che adesso vado a trovare un'altra pastiglia pure, per cui devo fare per 5-6 giorni, adesso faccio 20. Se dovessi aumentare, aumento a 22. E piccola la pastiglia, chissà che abbassi, capito? Infatti è così, se vuole. Di essere così per forza. Di aumentare un pochino, vedrà che ti si abbassa. Ah, il mal di testa non te ne viene mai. Come? Molte volte il mal di testa non ti viene. Oh, beh, il capogiro magari qualche volta, però mi viene il capogiro, viene perché... C'ho l'artrosi, per carità, poi da quando ho avuto quel colpo dell'albero mi fa male il collo, allora mi viene i cappuccini, che secondo come muovo il collo, capito? Ma non per la diabete, capito? Infatti. Bisogna stare a queste cose, bisogna stare attenti. Vabbè, pazienza. Cazzo, bisogna essere un po' di agio. A pane, bisogna mangiare poco pane e poca pasta, ma dico. E io, gatto, abituato, io la cosa la mangio solo il pane, anche la frutta mangio col pane io, si può immaginare tu. Però adesso mi devo anche regolare, gatto, devo mangiare un panino al giorno, così che mezzo panino a pranzo e mezzo panino la notte. Oppure mi mangio mezza spirata e quelle tonde, piccole però, capito? Basta, devo fare così, sennò è finito lo scopo, gatto. Capito? Perché questa volta era alta, ecco, per cui... mi sembra che era 176, ti puoi immaginare, gatto. E a pensare l'avevo sempre 143, 146, gatta, ma questa volta, oh, già ho mangiato anche roba dolce pure, e per cui quando mangio qualche roba dolce si mi aumenta. E poi è capitato proprio prima di andare a fare le analisi, gatta, ho mangiato un bel roba dolce quei giorni, che, ecco perché. No, io a pranzo e a cena mi mangio... Ma di voi la notte ne manco né dopo di bagno. Ma si interrompe ogni tanto, tu. Ma quel microfono sta dicendo se stai usando? Ogni tanto si interrompe, aspetta un attimino. Cazzo, si interrompe. Beh, no, tu non abbassi bene il PTT, guarda, è così, Perché è un po' delicato, capito? Allora fa quell'effetto, fa. Me lo fa a me, quell'altro piccolino mi fa quell'effetto a me. E quello è così, lo abbassi bene il PTT perché è troppo delicato. Infatti, sai che non lo abbassano? Secondo come lo muovo e non fa. Ecco cosa, si stacca direttamente. E vabbè. Quando vado un minuto di tempo me la baglio, paravalo a su così. E controllalo, e fallo funzionare, cioè, se provo con l'altro, fallo funzionare quello lì, perché sennò, sa, sono cose che bisogna farli funzionare, farli usarle, capito? Sennò, tanto, non si guasta di chi c'è, non si guasta niente, però bisogna accenderle, capito, farli funzionare. Non solo accendere, anche a parlarci, capito? Infatti, no, mi è funzionando. Adesso lo schiaccio bene e vedo che il rosso è bello chiaro. È come quello che ho io, uno così, microfono, che certe volte, siccome io mi sto prendendo il vizio di chiudere gli occhi quando parlo, boh, una cosa strana è. Ogni tanto mi rifaccia mia moglie, dice, ma perché chiudere gli occhi quando parlo? E magari lo vedi che lo sei uscendo, capito? E per cui mi capita varie volte, e così. E quel microfono che ci sono dicendo, ce l'ho uno io, mi fa quella, perché è troppo delicato, se non l'abbasso bene e spingo bene il dito, si mi interrompe, ecco cos'è. Ma, vabbè. Adesso lo sappiamo cos'è tu, per cui o prima o poi controllatelo bene, vedi un po'. Qualche giorno mi metto e che non so come vende nulla, che non so come già va, mi bongo a fare il mio bongo a fare e vedrà che poi prima o poi già lo metto a posto. Ehi. Bene, e questo bene fa, sì? È voglia. Chiaro tutto quanto, è forte il segnale. Ma c'è l'antenna grande lì. No, infatti. Mi stai arrivando forte anche, mi stai arrivando, a Puglia. Arrivano e dici che non mi intendia né bene. E allora ho toccato il capo lì, lo spinotto. L'ho inserito bene, giù, l'ho spinto. Ed era quello lì. Senz'altro. Oh, adesso stai riuscendo bene. Tranquillo, benissimo. Fondo scala, come sempre. Ci aspetto un attimino tu. Attenzione, signor Bacchisio. Ha messo la mano sopra ed era caldo, bollendo, sa. Sa perché? Perché c'era un tovagliolo sopra. Sì, pronto a cucinare lui. Avevo di cucinare lui. Ok, diminuito è il segnale. No, è sempre lo stesso. Adesso ho un attimino, ho cambiato attimino, perché stava bollendo. Adesso ho messo l'attimino interno. Ah, va bene, sì, a buia. Qualche giorno provo ad attaccare l'antennino che c'ho qua. Lo attacco al coso, lo attacco a vedere. Alla bicicletta, col paletto, a vedere se si riesce a vedere. Sperando sempre che non dia fastidio a nessuno. Ehi! Vabbè. A chiedere un bruvo a vedere se esce. Se esce bene. Prova. Io devo controllare le stazionarie, avendo un po' come... Perché non scaldava mai questo apparecchio, adesso si è scaldato. C'è la ventolina. Eppure è caldo. Ma scaldava, era sempre freddo. Dopo controllo, va. Vabbè. Dopo lo controlli a vedere se ci sono cose. Ma non penso che ci siano stazionarie. Anche se scalda un pochino e si accende la ventola. Ma non ha scaldato mai. Cazzo, era sempre... Esatto, ma non scaldava mai. Oggi la capo. È strano, Cazzo, la ventola sempre funziona. Questo quando abbasso la portante entra in funzione la ventola, capito? Infatti è così. Vuol dire che c'è, va freddo. E quello tuo dovrebbe essere così spesso. Quando abbasso la portante si attira. Vabbè, no, non è a ventola questo. Allora? L'altro sì che ce l'ha la ventola, questo non è a... Ah, ma prima stai usando quell'altro? No, io devo girare giù un busto, non abbasso il giraggio un busto. Sto usando questo piccolino. Ah, perché non funziona per BDT? No, quello non c'ha nulla. Chi non funziona bene è questo qua, Io pensavo quello che l'ho fatto io. No, che ci funziona bene. Ehi, cazzo. Chi c'è la giù un busto, la giù rimonito, i chibi. Ogni tanto ne rogavo, ma... Allora, ho lasciato questo, che piccolino, è meno ingombrante. Ecco, allora ho capito male, tu, dai, avevo capito male. E quello che c'hai tu lo tirava la ventolina, questo che stai usando adesso lo tirava la ventolina. Sembra di sì, no, non ce l'ha quello. No, non è la ventolina questa. Allora, ero docco, però, freddo. Oh, no... È freddo. Camere con due. Perché la busta. No, pensavo che era l'altro, capito? Ma è tutto strano, Cazzo, invece avevo capito male. Invece è quello che stai usando, ok. È piccolino è questo, meno ingombrante e tutto quanto. Ah, è appena a caldo. È bello così, visto, E faccio quello. Quello di precisa quello, l'ho regalato a Galasayaki, infatti, perché avevo, ne avevo due o tre di quelli lì, gatta. Così che ho detto cosa le faccio, per carità, gatta. Va bene, finché va, uso questa adesso. È meno ingombrante e tutto quanto. No, non mi sta dando fastidio, funziona benissimo, a voglia. Ma che voce c'è me? Ah, lo sto schiacciando bene il microfono. No, sta uscendo, cazzo, va bene. E sono con l'antennino io. Sei sempre a fondo scalato, va bene. Poi la radio è buonissima, è perfetta al 100%. Sì, a voglia. Ce n'è fisse troppo. Avvirome. Avvirome, cazzo. Ma per quei 10 minuti che ci siamo la sera lui, per carità, capisco. Infatti. Uso questo qua e ce n'è anche per i pulci. Troppo bene va. So che Bacchisio non senti, non inteso ancora. Infatti. Attento signor Bacchisio! Mi sembra a quest'ora non accende più lui, arrivato a quest'ora vuol dire che è molto impegnato. Sì, o sta piovendo da lui e non le vuole accendere. Sì, no, deve essere, o c'è gente o è impegnato facendo qualche cosa. E allora, come ho detto io, quello è tagliente poi il rubozzetto come integraziale. Io ce ne compareggio di più, non so che tipo in miro. Anche il rubozzetto l'ha già eliminato. L'ho spento, ecco cosa è. Ma se lui alzata così perché butto. Ma la cosa che fa il fatto è pure oggi la giù. Ma cosa la biglia fa tutta questa roba, gatta? Cosa ne fai? C'è di due, gatta. Vabbè, magari di no che non manca male a niente che faccia meglio a darci. Io piace di dare rotolo. E mi ributi per cui ogni tanto entra lì magna, le piglia, le valle, così che, pur malissimo magari è da fare così, bore, cazzo, ma è una robina fa, piglia la roba che fa sotto e considera la roba che fa sotto prima, cazzo, e c'è arrabbiato, ma posso fare questo che voglio fare io, cazzo. Fai come ti piace, fai, cosa vuoi fare? Vogliamo cercare i biglietti, biglietti, una cosa la biglia, fatti questa roba, cazzo. Sì, io il pacchetto che c'avevo l'ho eliminato, no, l'ho spento del tutto, così al manco. Poi mi sono accorto anche che su bozzetto era consumendo un bederuzzi da consumendo. Veniva quasi la bocca roba sempre. Ah, ma ne ha giurato, ha giurato che sono con consumenti pure un mancoluzzi. Vabbè, insomma, certe volte, ma lo sai, noi prendiamo per esempio una persona, no, per fare un minestrone, e la piglia è dalla fase a pezzi, e la buona dentro la buccia vanna, e se la buona in un boffetto, quando fa il minestrone, si piglia un poco e fa il minestrone, così che fa, è pulvante, capito? Già esageremo, dai, esageremo e anche se ci fossi lui là. No, e quasi ne manca la boffetta e dai nocchi. E non basta isso, ma poi bisogna pure i galasci di frigorifero, carte chivi, carte ferro congelatore, ma tessi. E il bimbo sempre pieno. Ma tanta di questa cosa tu non hai idea. Oh, là, per carità. Siamo troppo esagerati, Troppo. Certo, infatti, sono troppo esagerati. Solo che a me il suo bozzetto mi era consumendo un montone di luci. 100 euro di luce in più mi sia. Beh, e ragazzi, ragazzi, ma la sai? E minori, ma no, deve essere anche tra quello e il frigorifero vecchio era anche. Ah, mi sono capitato che da aprire si è baciata la bulletta da 235 a 135 va. Allora consumo più luci in campagna che in casa io. E il boffetto è sempre atteso loro. Sono anni che è atteso. E non è sempre pieno il boffetto. Capito? Era un frigorifero, per pure un frigo era un frigorifero. Eppure hanno deciso sempre 70, 73, 75 massimo. In campagna mi si pure 80, 100, e poi va bene in campagna, però fatta, faccio la cotta a vista, pure visto, però nel consumo bagna che no, che è l'ultimo. No, è a sede, insomma, a sede, capito? Allora, cadivi, la cadivi, la metà di un cinghiale, puoi immaginare, cazzo, dai la via a pezzi e poi in un bozzetto. Vedi come ti succede, è disastro, è piena di proprietà di niente, ma già lo liberemo però a andare, lo liberemo, a fare più si birra tutto. Ma come sta in biondarsi, ma che su, vabbè, io qua, nel freezer che c'ho qua, non ci sta molta roba, quindi mi raggio quasi pieno, mi raggio, quindi va. Tra poco già si imbiuda un poco. Ma via uno prima. Catta, era pieno. Però da un vent'anni fa, allora faceva un campeggio, faceva. Ci siamo parlati da... il bozzetto era sempre in funzione, no? Era pieno. Mi è pensato una chita che non bisogna far pigliare. Apro un bozzetto, to. Oh, io se non fossi preso mi rimane giù io in terra. Oh, già metto subito strappato. Tu, ed era guascio. Un frigorifero, tutta la roba che vira se è congelata e un fiago, ma con un cadavere così fiagoso. Se sciolto tutto, allora se sciolto da un bel se sciolto, tutto canto. Cosa hai fatto? Hai dovuto rampare tutto. Ma stagio rampato pure un boffetto. Stagio rampato un boffetto, gatta. ma si può su la maschera, il naso va a cavare per Dio Zallo, e da poi la radio di si queste voci, tante cose, lo fiaco per sempre, sempre, allora si mirava di un regalato, un bozzetto, ed era mi 4 o 5 anni che non abbiamo il bozzetto. Da voi invece nel signore ce l'ho, sto bello così, dice, te l'ho comprato, mi te l'ho portato stasera, mi mi ha regalato un bozzetto e già c'è funzionante. No, io c'ho giù in magazzino, ce l'ho. Funziona, funziona tutto quanto, però viraggio un saccaccio d'anni, viraggio. Beh, dicevo Gigi, no. Non andava bene un bozzetto, io che è, si fanno un bozzetto. La gente c'ha sempre componenti, c'ha sempre componenti. Dare questo membro perché non siamo mai soli noi, si mangiano i lastri che noi, capito? Per cui, la biglia, poi quando li siedi, quando c'è la torre d'andare a componenti, e apre un bozzetto e lui capa un bozzetto, capito? Infatti, bisogna far così, bisogna fare. Ma no, io non lo so, adesso torna a poner cosa, me lo compare giù d'orraro, lo bozzetto, dico zero rampo. Beh, se è chiaro, se è detto, non mi devo venire solo mezzi avanti, non mi incazza, non costava stare pure, cioè, e per cui, non è tanto manno, non è tanto manno, ma è avvenissato in mezzo a roba, e viene roba, cazzo. Per cui no, manno non conviene, capito? Uno medio, dai, ne prendo uno medio, ogni tanto li piodo, tipo che tutti il frigorifero, piglio la bagaglia e lo buro, capito? Le cavo sul ghiaccio, dai che pulito bene, asciutto. Da poi l'attacco d'orra, da che come se ne ritorno si può colare sta roba, capito? Infatti così bisogna fare, e vabbè. No, io sono, noi la sai manno, però l'ho staccata, non c'era un buon con attaccato che non ho venuto a Trento. Mi ha staccato, e tutto. Però ci bisognava un po' che tu devi a Trento, come ti sei sciuso. E l'ho lasciato così, l'ho lasciato. A chi si c'è voce, magari acciappi la carne, magari a cagnolo, anche pochino, magari a mezzo breio, ti rubino, ti rubo il bozzetto, ogni tanto bene, le capo pezzo e te lo cosineggi, capito? La polo sta bene, capito? Mira, io bisogna fare così, faccio tutto, è un bel roba, capito? E un bel volte che mi si prende più di la bambina dalla campagna alle orazze, con un'orazza bella, ma bella veramente, insomma, gli amici, se vuoi immaginare, me la mangio, a mezz'ora me la gemina, a mezz'ora me la mangio il saluto, per dirti no. E a sapi, c'è occasione, li bino un po', il suo bozzetto, e noi ci andiamo a comporare, vira gli anni, un capito del bozzetto, lo mangi. No, io invece la sai, aggiungo un amico, un collega di travaglio, e ma se avessi ne volevo di orate, mi ha dato sì, mi ha dato 20 euro. Roba che ha pescato lui oppure roba di risvaglio? No, roba che ha pescato lui, li ha pescati. E poi gli acciviliani che erano i freschi. E il buru bianco di sabbia, buru. Buonasera anche a lei. Anche a me mi chiama, io ho parecchi amici, ogni tanto anche cose dell'altro, per esempio la Regale, se ne piace un biglio, per dire un bolpo, quando va poi il poeta di coglio, matura, che mi piace i bolpi maturi, 10 minuti non mi piace, e i bolpi specialmente, se ne mangi un poco e poco mi piace, faremo tutto faremo. Pure la zuppa mangi, ogni abbesso di zuppa non è reato, per dirti, quando la ciappo vedo, lo bile, lo buro e se lo bocco in un bozzetto, quando giù mi fa meno lungoso, la zuppa, lo capo, lo bocco a moglio, appena che siamo lo bilisce e me lo così regge. Infatti bisogna fare così, quando già ci ha pagato che non virà, pigliarlo subito, quando ci sia anche fresco, prenderlo subito e metterlo in frigge, tanto non si guasta in chivi. No, è bestia che si guasta. Ma non può stare anche due o tre mesi, non di più però, a voi bisogna che la vanilla, che sennò da voi non andate, capito? Vediamo un po' chi è che ha salutato. Tanti, con la buonasera. Buonasera, dottore, ben sentiti. Chi sei, Ciucu Ciucu? Sì, Ciucu Ciucu sono, buonasera. Buonasera, Tore. Catta, Catta, basso ti sentivo, però adesso non ti ho sentito più forte. Allora senti, Antone, tu a tavello. Io lo sento, sì, è carino che non rintendi. Ma, Ciucu Ciu! Dimmi tutto, caro. Molto, molto forte, molto. E anche molto bene. Ma mi pare che sei basso, Simi. Quasi quasi, no, intendo un segnale, forse però a radio sei basso, Ma sei tu che sei va vedendo basso? Guarda, adesso ti va bene adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E la faccia andi per... Catta! Vero, Giomari? Avanti, vedo, prima era... Tento un po' su Zira, catta, per carità, catta. Brutti buchino, Allora, non lo so io, catta, adesso già mi sentite bene, perché sto parlando vicino al microfono. Adesso la sei tu, a Toledo, la va bene adesso, a voglia. Però non posso essere macchinio, quello non rientra più, Tore. Sì, a me invece mi sociamenti, aiù. Vabbè, dai, ciao Marie. Io saluto a Antonello, ci sentiamo domani Gio Maria, alle prossime, da aver fatto 10 minuti di chiacchierata e andare così. Ciao Antonello, ci sentiamo domani Gio Maria. Sì, ciao Tò, ci sentiamo domani. Un cuore di buona sera a tutti. Ciao, saluto di casa domani, e coincide, buon proseguimento e serata. E so già fatto lei, allora chiudiamo là, è già ora di, lo so, ma che fare i mochetti che si sono lamentati, devo dire che è un bel appetito, allora da che fatto lei, dopo tanto sei entrato, ci sentiamo domani, dai, buon proseguimento, chiudo. Sì, ci sentiamo domani, non c'è problema, già accendo qua, ho arrivato, poi sicuro, non c'è problema, statevi bene, buonanotte con tutto, buona cena. Ok, ciao, chiedo.